noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. The USAI senza rito, David Silva, Gabriel Jesus, attenzione, Walker, Sterling, Sterling, proprio lui nella posizione più centrale come lo vuole Guardiola, porta in vantaggio, sì, De Bruyne a rimorchio, attenzione, va sul fondo, va a cercare Gabriel Jesus, eccezionale, altro assist di De Bruyne, Gabriel Jesus non può sbagliare, 2-0. Abbiamo sbagliato un po' pressioni, distanze, abbiamo concesso troppi spazi tra le parti. È una squadra devastante, una squadra che veniva da 17 gol fatti in 3 partite in casa, quindi prendere gol dopo 5 minuti era stato pesante. Hey Jude, don't let me down. Tutto pronto, Diawara, rete, la Spagna, Diawara, rete, tutto riaperto, 2-1. Inaspettata la difficoltà per parte nostra del Napoli. Io non posso giudicare come è andato. Mi aspettavo la partita che è stata, la partita dove loro due devono fare molto gioco per dentro, con passaggi corti, tante pressare alto, alto, alto. È impossibile giocare 90 minuti dominando questa squadra. Io come calciatore e come giocatore e poi come allenatore mai ho giocato in una squadra come Napoli, mai me ne sono trovato. Beh, Guardiola un po' esagera, come allenatore, come giocatore mai giocato contro una squadra così forte, però fa parte del suo ruolo, del suo modo di essere, incenso e oro, incenso e mirra agli avversari per dire che il mio City è una gran squadra, il che è vero, il miglior spettacolo del mondo, non lo so, ma ci andiamo vicini, forse il miglior spettacolo d'Europa in questo momento a ottobre, poco dopo metà ottobre, è City-Napoli, quello che abbiamo visto ieri sera, 2-1, una sconfitta che a Napoli non fa malissimo, perché al di là del fatto che lo Shakhtar ha vinto in Olanda, però non voglio nemmeno pensare che la qualificazione sia in discussione. Lo Shakhtar dovrà arrivare a Napoli così come il City, poi il Napoli andrà in Olanda con l'obbligo di vincere, va bene, è tutto corretto, però questo 2-1 lascia al Napoli tutte le porte spalancate. Detto che, contrattura Insigne in dubbio per l'Inter, e forse si è risparmiata qualche energia e si è risparmiato un po' di personale, è quello che andava fatto al di là dei consigli di De Laurentiis, perché la partita con le maiuscole, come dicevamo ieri, è quella di sabato sera contro l'Inter. Ciao Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, ovviamente, soprattutto a loro. Quante facce di cazzo hai visto ieri sera nello stadio di Manchester? Nella prima mezz'ora 11. Ed erano tutte del City, devo dire la verità, che ha disegnato un calcio che è prossimo all'arte o forse dentro all'arte. Arte contemporanea. Sono rimasto, non dico stordito, sembrerebbe poco aderente, ma forse scioccato dalla bellezza, dalla capacità di essere squadra in tutte le zone del campo e diversamente. Ci sono stati momenti di un calcio che ormai purtroppo viaggio verso il 60, io non ho mai visto. Credo che Guardiola rappresenti il punto Guardiolismo 2.0, 3.0, 4.0, credo che rappresenti il punto più alto di questa. Detto ciò, poi sono venute fuori le facce di cazzo Napoli. Sì, diciamo, tanto copierò c'era Sarri, pagheremo i diritti, devo dire. Devo dire che ne è uscita una clamorosa, che è quella di un ragazzino di 19 anni che ha detto datemi il pallone, adesso ci penso io, sì, e riapro la partita. E già prima qualcosa sarà intravisto, qualcosa del cosiddetto sarrismo, altro tipo di arte allo stato puro, e non finiremo mai di domandarci dove comincino i meriti dell'uno e dove i demeriti dell'altro per un tempo e anche nell'altro. però se è vero che ha un senso tutto ciò che ha fatto il City, è vero che deve avere un senso anche tutto ciò che ha fatto il Napoli, e l'ha fatto rimescolando la partita e dandole un senso nella fase finale in cui veramente hanno avuto il sospetto che si potesse pareggiare. Diawara è stata la più bella faccia di cazzo. Sì, sì, hai detto, ma ha cominciato Sarri, che io l'ho dichiarato pubblicamente ieri, dopo quell'uscita entra di diritto nella galleria dei miei idoli, ma perché, ma non per le parolacce, perché quelle va bene. Perché è politicamente scorretto, mi va bene, perché si espone, mi va bene, mi piace Sarri quando si espone. Ieri dicevo quello che bisogna, che il Napoli deve evitare. A proposito, vi do un appuntamento subito dopo il traffico, quindi tra 5 minuti ai nostri microfoni, Sua Maestà Gianfranco Zola, amen, sarà qui anche per parlare con voi. 800 24 00 24 è il numero verde, è uno degli scudieri della Champions League che sta facendo con Unicredit il Giro d'Italia ed è approdata a Napoli. Antonio, dicevo ieri, la cosa importante per il Napoli è quella di non prendere sberloni sul prato del City, ma non per in funzione qualificazione del passaggio del turno in Champions League, che io continuo ostinatamente a considerare scontato, ma in prospettiva gara con l'Inter, che secondo me è importantissima. Poi c'è il mio amico Giorgio Luca, il nostro autore, oltre a Gianmarco Ferronati in regia, che napoletano, che mi dice: ma siamo a ottobre? Sì, però è una partita che ha un peso specifico enorme, non solo perché quest'anno come non mai i confronti diretti valgono doppio, triplo, quadruplo, ma perché sarebbe benzina emotiva pazzesca per il Napoli. Hai detto tutto tu, posso soltanto aggiungere due aspetti. Uno, significherebbe mettere la più prossima delle inseguitrici a 5 punti dopo un quarto del campionato. Due, significherebbe avere ulteriore consapevolezza dopo aver battuto Lazio e Roma, che veramente si possa fare. Tre, nel girone di ritorno il Napoli deve fare tutte le trasferte. Conviene avviarsi un po' per tempo, onestamente. Sì, come hai visto in funzione, quanto ha speso il Napoli ieri sera, banalmente? Quanto? Ha speso il Napoli ieri sera? Ha speso parecchio, però questa è una squadra che recupera subito e soprattutto ha un giocatore che poi fa il pieno per sé e per gli altri. Quando giochi con Allan, d'altra parte lo dicono le statistiche, no? Il più grosso ruba pallone del campionato. Sì, Sarri mi diceva nel dopo partita pubblicamente: sono un po' un divago perché sottolineavo questa assenza, no? Dice: quando li faccio giocare sempre non ti vanno bene perché li faccio giocare, li consumo, se li cambio non ti vanno bene perché li tolgo e quindi perdo in qualcosa, decidetevi un po' voi. Devo dire che in questo momento, se c'è un giocatore irrinunciabile, è Allan. Beh, no, ce n'è un altro, Io ho detto se ce n'è uno, se ce ne sono due, l'altro è Gulam. Fuochino. No, io direi che il Napoli non può giocare senza Mertens, diciamoci la verità. Cioè, il Napoli non può fare a meno di Mertens. Mertens rappresenta il caposaldo in questo momento, però devo dire, forse una serata di tranquillità gli farebbe comodo, e gli auguro di trovare immediatamente la sua condizione, ne ha bisogno. Detto ciò, Mertens è un uomo di anche quando gioca male come ieri sera, è fondamentale Dries Mertens, perché comunque è quello che lì davanti ti completa il discorso, è quello che lì davanti comunque fa paura agli avversari, quello che comunque lì davanti può farti gol in qualunque momento, è quello che comunque lì davanti o c'è lui o non c'è nessuno, diciamoci la verità, Antonio. Sì, o c'è lui o non c'è veramente nessuno, diventa complicato, altrimenti eventualmente a partita in corso prima sarebbe entrato, avrebbe giocato come ha detto Sarri, Mili, perché poi diventa veramente faticoso riuscire a sopportarle tutte. Noi camminiamo in macchina, loro corrono. Ciao Antonio, grazie, a presto. Grazie a te, buona giornata. Antonio, ciao Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Dunque, 800 24 00 24. Ciao Dario Ricci. Ciao Carlo. Mi ha raggiunto Dario Ricci, perché tra un istante, dopo il traffico, interroghiamo fino all'ultima domanda a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola, ma che spettacolo, ha fatto bene a venire. Che cazzo stai qua a fa? Ah già, c'hai ragione. Siamo qui, mica pettiniamo le bambole. Intervistiamo Gianfranco Zola il giorno dopo Manchester City Napoli, e alla vigilia di Napoli Inter, gara cruciale, Gianfranco Zola, che è scudiero di quella Champions League che abbiamo, insomma, ospitato qua. La nostra Champions League, chiamiamola. Secondo cui ho fatto suonare questa bic da 50 centesimi e a momenti vengo arrestato. Allora, traffico, torniamo. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. L'unica volta che l'Italia vinse su questo terreno, lo ricordiamo tutti, fu nel 73 col gol di Capello. Attenzione Zola, l'aggancio, il destro, grande gol di Gianfranco Zola, in vantaggio all'Italia al 19esimo. Extraordinary finish from Gianfranco Zola. This is a public warning. Messo in difficoltà Turan da questo retropassaggio, se la cava bene sull'attacco di Esposito, poi Appia perde palla, riesce a intervenire, la perde ancora, interviene da terra, poi Brambilla, possibilità ancora per il Cagliari, Brambilla attende, poi il suggerimento, Zola di testa, Gianfranco Zola di testa, 1-1. Caro Dario Ricci, re delle due Sicilie, baronetto d'Inghilterra, Magic Box. Gianfranco Zola, buongiorno e grazie. Buongiorno, mi volete far emozionare voi, ma figurati, far emozionare uno come te, ma non scherziamo. No, Gianfranco Zola, che oggi è lo scudiero di quella Champions League che Chivo e Cafu ci hanno portato qui in studio, grazie ad Unicredit, che ha accompagnato Vialli, che abbiamo sentito qualche tempo fa a Torino, e oggi la Champions League è a Napoli. E fino a Roma l'accompagneremo. Fino a Roma l'accompagneremo. Dove sarà Pujol, giusto? Sì. Il nostro prossimo ospite, Carles Pujol, ci mancherebbe altro. Forza. Spirito catalano. Franco Zola non è mai alzata, però, No, toglimi una curiosità, te però... la fanno toccare? Perché c'è quella signora dell'UEFA che io saluto cordialmente. Sì. E quei signori vestiti, i Men in Black, che volevano arrestarmi l'altro giorno perché ho suonato la penna sulla Champions. Ha detto: non si può. Va bene, non lo faccio più, giuro. No, guardi, c'è stato un siparietto, ma mi hanno presentato. Sua maestà, aspetta che ti richiamo perché sento male, non voglio perdermi neanche una parola adesso. Giorgio De Luca, che è tifoso napoletano e quindi è un amico, ti richiama. Dunque, la Champions League va adesso è a Napoli, adesso poi va a Napoli, Roma, poi a Roma nel fine settimana con Carles Pujol a fargli da scudiero e testimonial. Direi che abbiamo accompagnato nel modo migliore questo tour. Ma Pujol che va? Lo recuperiamo? Come no? Già stiamo lavorando dietro le quinte. Qua è partita subito la serie. Noi siamo la Spectre di Radio 24. Siamo la Spectre. Eccolo qui, Gianfranco. Dicevi del siparietto? Eccolo. Parlando che ieri quando sono andato a presentare la competizione, no? la coppa in questo van, mi hanno fatto sollevare la coppa mentre praticamente suonavano la musichetta della cosa, hanno poi sparato i coriandoli come se l'avessi vinta. Allora vale, ho sentito anche un po' di imbarazzo. Allora vale. Senti, avrai visto Napoli ieri sera? A me, insomma, è piaciuto su un campo in Inghilterra, tra l'altro, è un altro dei tuoi giardini. Su un campo che in questo momento è impraticabile, che credo per tutte le squadre d'Europa, no? Quello del City. Ma guarda, in questo momento io non so se il City è la squadra più forte d'Europa, però sicuramente è una delle squadre, se non la squadra più in forma. Quindi non era una partita semplice per il Napoli. Poi sai, il Napoli, c'è anche da dire, è abbastanza giovane in questa competizione, quindi quando vai a fare una partita contro una squadra del genere fuori casa, un po' qualcosa devi lasciare indietro, devi pagare una specie di dazio. Il Napoli l'ha fatto per 30 minuti e purtroppo quei 30 minuti sono costati cari. Il City è stato veramente impressionante, ha fatto due gol, ne poteva fare di più. Poi dopo è venuto fuori il carattere e la qualità del Napoli e c'è stato anche un momento in cui avrebbe potuto pareggiare, però secondo me sommando tutto di il Napoli è venuto fuori abbastanza bene, a parte il risultato però. Sì, il risultato comunque il pericolo era quello di non prendere una scoppola. La scoppola non è arrivata, una sconfitta di misura che tutto sommato male non fa. Mentre io raccolgo un messaggio di un ascoltatore dalla Corea affezionatissimo, che dice, Vincenzo, che ci ascolta ogni giorno dalla Corea, dice che Zola è famosissimo anche laggiù, potremmo creare un magari business. Magari pure in quello del nord, poi ci indagheremo. Gianfranco, però ti chiedo se... Io lì non ci vado. Ah, ecco, ti facciamo sapere noi, magari, ecco, se vediamo. Poi relata lei, refero, come si dice. Senti, però Gianfranco, io sono molto arrabbiato con Sarri. E ti spiego perché se fai quella conferenza stampa della vigilia, no? Quando vuoi 11 facce da cazzo che palleggiano là davanti, non fai quella prima mezz'ora in cui vieni preso a padellare. C'è anche il City, è chiaro che c'è il City, ma lo sapevamo pure prima. Ti parlo per esperienza diretta, non è che tu vuoi fare quella figura così, a volte sono cose che succedono, è una cosa naturale, ripeto. Il Napoli in questa competizione non ha l'esperienza del City e non ha l'esperienza di altre squadre, pur avendo giocatori esperti come Hanzik, Albiole e altri, voglio dire, sono comunque, è una squadra, ripeto, che in questa competizione ci sta da poco tempo e di conseguenza quando vai a fare una partita dove tra l'altro molto parlata, molto esposta, è normale che dal punto di vista psicologico ci sia magari l'inizio sia un po' così. Però, ripeto, tutto sommato poi il Napoli si è ripreso e credimi, io sono convinto che dalla partita di ieri trarranno tanto per il futuro. A volte, sai, queste esperienze ti migliorano veramente tanto. Ma, Sua Maestà, tu da allenatore quella conferenza stampa l'avresti fatta? Avresti detto quelle cose? Se devo essere sincero, mi ha fatto sorridere molto. Anche a me. No, però Maurizio è così, è stato, lui ha espresso il suo pensiero, l'ha detto anche in maniera forte, ha chiesto alla squadra una prestazione importante di carattere e secondo me in qualche modo l'ha avuta, un po' in ritardo magari, però l'ha avuta, perché comunque il Napoli, ripeto, una brutta figura non ce l'ha fatta io. No, assolutamente. No, ma considerando anche, Dario, che la partita che conta per il Napoli sì, è quella di sabato sera con l'Inter. Sabato sera con l'Inter, cioè pesa di più? Pesa di più perché quest'anno se Champions non lo possiamo dire, Scudetto non lo possiamo dire, Coppa Italia no, si diciamolo, può accettare. Scudetto, cioè, diciamolo. Io dico, il Napoli io dico, no. Gianfranco, dillo tu, Scudetto. Prendete questa responsabilità. Tu l'hai vinto. Quello che dico io è questo, non è che uno non le deve dire queste cose, deve essere poi consapevole che per arrivare a quello che si dice lo si deve fare con l'impegno, mantenendo la concentrazione, pensando non al fatto che devi vincere la competizione, ma che devi performare al massimo delle proprie possibilità, come sta facendo il Napoli. Sai, il fatto è questo, magari uno a volte dice io voglio vincere quella cosa, pensa solo a quello e non pensa alla performance che ti porta a vincere quello. Questo secondo me è quello che porta alla riscazione. Ma credo che il Napoli di questo sia convinto e comunque sta crescendo. Il Napoli è da 3 anni che ogni anno migliora. Quindi io spero che questa crescita continui, che poi questa crescita la porti a vincere il campionato e anche la Coppa, è il mio augurio. Sì, la Juve come la vedi? È in crisi, non è in crisi? No, non è in crisi, la Juve non è in crisi. Io l'ho detto l'altro giorno, quello che in questo momento restona non è la Juve che ha perso qualche punto nelle ultime 2 partite, ma il Napoli che comunque ha messo dietro la Juve e l'Inter, perché ha vinto 8 partite di fila. Ma la Juve, se Dybala non sbagliava quegli ultimi 2 rigori, probabilmente si trovava con 3 punti in più, a soli 2 punti a Napoli, nessuno avrebbe avuto da che ridire. Ma Gianfranco, la Juve ci sarà fino alla fine, su questo non ci sono dubbi. Ma senti, una provocazione che al bar la mattina mi tirano sempre le pentole quando dico sta cosa, vediamo se anche tu. Ma Higuain era così necessario alla Juve? Higuain l'anno scorso ha fatto grandissime cose alla Juve. Però mi sembra che con Higuain io vedo una Juve meno solida rispetto a quella di Berlino che ha perso col Barcellona. Sono 2 anni che questa campagna acquisti non mi piace, però se lo dici te il parere tuo conta di più, Ma il mio parere conta quanto il tuo, nel senso che comunque la mia è un'opinione. Io uno come Higuain preferisco averlo in squadra che avercelo contro, quindi questa è la mia. è la mia personale opinione. È chiaro che poi da Higuain, per quello che ha fatto negli anni, l'anno scorso e due anni fa, per quello che è costato, si aspetta che faccia magari due gol a partita, ma così non è. Però ripeto, per me Higuain è un giocatore, grandissimo giocatore, uno dei migliori attaccanti al mondo, e non sarà certo una partita o due o tre partite di quest'anno che mi faranno cambiare opinione. Sì, poi aspettiamo che segni anche nelle grandi partite. Senti, stasera la Roma gioca su un tuo giardino, nel tuo giardino, cioè quello del Chelsea, Stamford Bridge. Come la vedi? Guarda, il Chelsea arriva da due brutti risultati, però questi sono i momenti in cui più di tutto temo, avrei paura delle squadre di Conte, del Chelsea, perché poi le reazioni sono rabbiose e forti, quindi io credo che mi aspetto una grande partita da parte del Chelsea. Secondo me tutto quello che la Roma vuole avere se lo deve conquistare con una grande prestazione, non sarà semplice. Gianfranco, una battuta sull'Italia, ci tocca la Svezia. Oggi ho letto due pareri quasi discordanti su due giornali. Su Repubblica addirittura titolano: Zola dice non sarebbe una tragedia se non andassimo ai mondiali. Nella Gazzetta invece ti attribuiscono un altro pensiero quasi contrario. Ecco, insomma. Beh. Tocca andarci, mi sono espresso bene allora, eh? No, io ho detto, no, mi è stato chiesto da un giornalista, ha detto potrebbe essere una buona opportunità o potrebbe non essere. No, io ho detto, sai, a volte si deve passare anche su dei brutti risultati. Ho citato l'esempio della Germania, che da un brutto risultato poi ha ricostruito, ha fatto ripartire una ricrescita che poi l'ha portata a essere una delle squadre più forti del mondo in questo momento. Quindi ho detto questo, ma non ho detto che mi auguro che sia così, ci sono diversi modi. Mi auguro e me lo auguro con tutta sincerità che questa partita con la Svezia, non facile, ci permetta di andare ai mondiali, perché comunque l'Italia è un mondiale, senza l'Italia non sarebbe la stessa cosa. Ciao, sua maestà Gianfranco Zola. Grazie, salutaci da Coppa. Piacere. Ciao, un piacere. Grazie Gianfranco Zola. Beh, insomma, non siamo riusciti a fargli dire che il Napoli vincerà lo scudetto. Però, grosso modo, parafrasando, sì, interpretando la per là, ormai di... quando dici scudetto c'è il cornettone rosso, quello che volevano mettere sul lungomare. Già ce l'hanno a casa. Prendete questa responsabilità. Dillo a Sarri. Ma mi Sarri è sulla buona strada, sta imparando. Sì, il ragazzo si applica. Dario, ti ringrazio, ti aspetto per il prossimo giro della Champions. Allora, okay, Ricordiamo, sarà a Roma. Roma nel fine settimana, sabato e domenica sarà a Roma. E noi non andiamo? Noi andiamo, stiamo andando. Io mi porto la penna. Vuoi fare proprio... Scattano le mani. Caspita, non è che vogliamo fare il cuoricione proprio col coltellino, eh? Il cuoricione col coltellino, se ti avvicini ti arrestano. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi torniamo anche con Pardo che sta arrivando a Londra per commentare questa sera Chelsea-Roma. Andiamo su quella partita, sulla vigilia della Juve, sulla voce dei convocati. 800 24 00 24, numero verde. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Mi manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Penso che è il collettivo della Roma, è la squadra che fa paura. Dentro la squadra ci sono poi dei singoli molto importanti. Conosco bene il cuore di tre ragazzi come De Rossi, e Sciaravi e Florenzi. Ecco. So che hanno un grosso cuore, magari gli toglierei una parte di cuore. Ecco. Yeah, Sicuramente voglio un approccio differente a quello che partiva con Napoli, i ragazzi lo sanno benissimo, sapendo che dall'altra parte c'è un'altra squadra che vorrà un approccio feroce perché ha perso con l'ultimo in classifica. In campo scendono due squadre, è ovvio che però io guardo la mia e cercheremo sicuramente di approcciare meglio questa gara. Rimaniamo a Londra, rimaniamo in Inghilterra. Good afternoon, Mr. Pardo. How are you? Come va? Molto bene, grazie. Pretty well. Oh. Just landed about 20 minutes ago. How is in London over there? How is the weather? The weather is typically Londoner. British one. Raining as hell. Però anche il fascino di Londra, no? Raining as hell, ecco, partita bagnata. Come diciamo noi, non è quel caldafoso, ecco. Senti, ma cosa deve fare la Roma stasera? Firmeresti, fossi un tifoso della Roma o fossi di Francesco, che abbiamo sentito insieme a Conte prima, per una onorevole sconfitta di quelle che piacciono tanto all'Italia del rugby? No, guarda, la sensazione è che la partita decisiva per come si è messo il girone dopo la vittoria del Chelsea con l'Atletico Madrid sarà Atletico Madrid-Roma. Perché insomma, se facendo due calcoli e dando per scontati i 6 punti dell'Atletico Madrid nelle prossime due partite col Karabag, vedi tutti gli incroci, gli incastri, e capisci che la Roma deve fare assolutamente risultato a Madrid. Per essere liberi dall'assillo di dover fare risultato a Madrid alla quinta giornata, bisogna fare un'impresa col Chelsea. Quindi non c'è molto altro da, secondo me, da dire e da fare. L'altro giorno Baldissone diceva fare qualche punto col Chelsea, giustamente, insomma, è ovvio, però insomma la Roma deve avere, secondo me, invece un atteggiamento di grande speranza, di grande coraggio, perché è vero che non ha risolto i suoi problemi, ma è anche vero che pure il Chelsea non è esattamente nel momento migliore della stagione, rientra Morata e questo ovviamente non è un dettaglio. Senza Morata la squadra ha praticato tantissimo col City, col Crystal Palace addirittura perdendo clamorosamente, però insomma, per come ha messo il girone, secondo me la Roma deve provare a fare in queste due partite 4 punti, mi rendo conto che è difficile, è molto difficile, però insomma l'obiettivo deve essere quello, perché altrimenti insomma, se ne fai 3, anche a me se tu ne faccia 3, poi comunque rimani sempre, secondo me, molto legato a quella che dico Madrid-Roma. Ma chiaro, la partita decisiva è quella, perché i gironi di Champions League si leggono in questo modo, come stai facendo tu, perché in fondo sì, diciamo, se fai 3 poi qua diventa fantacalcio, se fai 3 punti col Chelsea, quindi ma una vittoria, una sconfitta, e arrivi a 7 punti e l'Atletico Madrid fa il suo dovere, che immaginiamo, a quel punto sei a quota 7 e vai a Madrid, se vai a Madrid alla pari e dovessi malauguratamente perdere. Hola, Mr. Pardo is fallen down. Yeah, now we will recall him. Tanto Matteo, provincia di Modena. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. No, tornando alla partita di ieri sera, è stata una partita stupenda che ha offerto moltissimi spunti tecnici, uno spot per il calcio. Beh, ragazzi, il primo tempo del City è stato pazzesco, Matteo, stupendo, diciamocelo. Stupendo, soprattutto una nota, vedere il loro portiere giocare sempre comunque il pallone bene, sembrava giocassero in un in più, e poi credo che però alla fine il Napoli pagherà la poca profondità della rosa rispetto alla Juve in campionato e in Champions League, rispetto a quelle grandi potenze lì. Io farei un distinguo, Matteo, a me il Napoli non sembra, ma probabilmente non è neanche nelle intenzioni del Napoli, non sembra una squadra da Champions League, cioè non la vedo fare la strada che porta alla finale. Il Napoli, io credo che in Champions League debba provare ad andare il più avanti possibile, però il bersaglio grosso è quello del campionato, e per questo dico la partita importante, determinante, fondamentale, anche se Giorgio Luca Micazzi dice siamo solo a ottobre, è quella contro l'Inter, perché sappiamo quale sia il peso specifico dei confronti diretti in questo campionato italiano. Mr. Pardo is coming back? Sì. Sì. No, sentivo il discorso, però ecco, non vorrei neanche che questa Champions diventasse, che la Juve tanto poi perde in finale, non so dirti, c'è un po' di frustrazione che tanto si va avanti, che il Napoli tanto non può far niente, è meglio che si concentra sul campionato, che a Roma c'è un girone troppo difficile, soprattutto andiamo a casa direttamente. No, no, per carità, che... ma perché? No, no, non è questo. Io credo che la situazione del Napoli è ovviamente complicata per la sconfitta di Donetsk, che si porta dietro una serie di incognite che dureranno fino all'ultima giornata. Quella è stata veramente una sconfitta pesante che secondo me rischia di condizionare proprio questi due mesi del Napoli, però il Napoli è ancora ampiamente padrone del suo destino e deve crederci tantissimo. La Roma è un po' meno padrone del suo destino perché è un girone veramente molto complicato e molto difficile, però come dicevo poi è saltata la linea, non so fino a dove avete sentito, deve provare a fare 4 punti col Chelsea, è durissima ma deve provare per una serie di calcoli ovvi per arrivare bene alla partita con l'Atletico Madrid e sapere che ci può essere vita anche perdendo a Madrid, deve fare 4 punti col Chelsea, non è facile. Gianluca Prato, buongiorno Gianluca Prato. No, aspetta, sì. Dicevi? Sì, no, aspetta. Sì, deve fare 4 punti nelle prossime 3 partite, 2 col Chelsea e 1 con l'Atletico Madrid. Gianluca, buongiorno. Ciao ragazzi, saluto tutti, siete veramente in gamba ed è piacevole ascoltarvi. Io volevo velocissimamente darvi due spunti. Il Manchester City e età media sono ragazzini e in panchina c'era un certo Agüero. Vi faccio notare che nei primi 30 minuti se Napoli piglia 4 gol è normale. Beh ragazzi, non... averne di ragazzini così, però scusami, lo sai qual è la differenza? Che il gioco di Sarri, che è spettacolare, che io sono innamorato, poi è toscano come me per cui mi piace, ti obbliga a muoverti senza palla. Il Manchester City lo fa a velocità tripla. Il problema è che loro viaggiano a velocità. Il campionato italiano ormai è diventato un campionato dove si viaggia molto molto più lentamente. Stiamo arrivando a un punto tale che le squadre atleticamente, le nostre, dopo mezz'ora le vedi che iniziano a spingersi. Guarda anche la Juve con la Lazio. Sì, sembrava che la Lazio stesse molto meglio fisicamente. Allora io dico, è un problema secondo me anche di preparazione. Però ieri sera tendeva a spingersi, per usare questa bellissima parola in vernacolo toscano, il City, perché ieri sera il City ha giocato un primo tempo meraviglioso. Ha pagato il fatto che essendo una manica di ragazzini è normale che non hanno esperienze malizia per gestire una partita, ma sto dicendo, se il City fa 4 gol nei primi 26 minuti non ruba nulla, e allora di cosa parliamo? Cioè il City nei primi 26 minuti viaggiavano come delle schegge, facevano spavento, bellissimo a vedersi. Io penso che Sarri, a parte invertita di Nasser, Manchester City le vincerebbe tutte 8-9-0, perché lui adora il gioco senza palla, certo. Quindi gente che si va e si butta. A me l'unica paura del nostro calcio è che si viaggia troppo piano in generale, si viaggia troppo piano, però il nostro calcio ti incarta come una carta moschicida molto spesso per le squadre straniere. Allora saluto già Gianni Balzarini, inviato di Mensa Premium a Torino per la partita di questa sera della Juventus, che deve dare diverse risposte. Ciao Gianni. Ciao, buongiorno a tutti. Un attimo solo traffico e poi parliamo di questa gara. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, Gianni Balzarini, inviato in Mediaset Premium a Torino, buongiorno, ribongiorno, riciao, buongiorno, siamo già salutati ciao. Prima e sì. Voi lo conoscete bene. Allora, una partita non banale quella per la Juventus, è chiaro che è una partita da vincere, questo aumenta il peso specifico anche della tensione, della pressione in un momento non brillante, no Gianni? Allora, non banale sicuramente, a maggior ragione perché si infila in un contesto temporale per cui la Juve deve dare anche delle risposte extra l'obiettivo specifico di questa sera, che Chiellini ha dipinto molto bene con una frase un po' da Marcord, no? Doppia sfida col Barcellona, con lo Sporting Lisbona, tenendo conto del fatto che il Barcellona è già praticamente passato e l'Olympiacos avrà poche chance, è una specie di sedicesimi di finale della vecchia Coppa dei Campioni. Ha perfettamente ragione, perché la Juventus, vincendo queste due partite, si garantirebbe il passaggio del turno e comunque già vincendo questa sera farebbe un notevole passo avanti. Ma è un momento in cui la Juventus deve dare anche delle risposte dal punto di vista caratteriale, perché una partita la puoi anche vincere giocando male o con un colpo di fortuna o con un gol al 95esimo. La Juve deve dare delle risposte invece di continuità, di applicazione mentale alla partita, perché questo è stato il difetto della Juventus nelle ultime due gare. o meglio, che nelle ultime due gare si è poi concretizzato in un risultato negativo, ma che già si era palesato anche in partite precedenti. Pierluigi Pardo è tornato. C'ero, ho sentito pure il traffico, posso anche parlarti dei rallentamenti. No, ma ho detto benissimo, cioè è una partita che un po' per la situazione del girone, che comunque non è facile, non è scontata, diciamo. Poi io credo che la Juve sia superiore allo Sporting Lisbona, però non è assolutamente scontata, è un po' per il momento particolare in cui arriva, è una partita che non va sottovalutata, che va giocata con grande attenzione, che la Juve non si porta la casa, su questo non ci sono assolutamente dubbi, quindi ci vuole la formazione migliore. Ecco, questa è la partita importante secondo me in questo momento, più in vista del primo, diciamo, un po' di gerarchie, non c'è dubbio, insomma, con tutto rispetto per l'Udinese domenica, poi sarà un passaggio anche quello ovviamente significativo, perché la Juve non può perdere altri punti in campionato, però la partita è quella di stasera, non c'è nessun dubbio. Sentiamo Allegri cosa ha detto ieri alla vigilia. La Juventus non è assolutamente in crisi, è un momento in cui abbiamo fatto un punto in due partite, ma il campionato è lungo, questa è la Champions, è un'altra partita dove le partite vengono giocate in modo diverso. Per il campionato c'è ancora tempo per recuperare, l'ho detto prima, a marzo dovremo essere lì a lottare, perché sarà un finale campionato molto bello con tutti gli scontri diretti che ci saranno. Quindi in questo momento Allegri dice una situazione molto diversa rispetto a quella del Napoli, che invece in questo momento deve provare ad accelerare in campionato, la Juventus può forse permettersi di temporeggiare. Quanto alla formazione di stasera, Gianni, per chiudere mi confermi, beh, quella migliore per il momento che attuale, no? Sono ancora tanti infortunati, anche eccellenti in caso di Juventus, e questo viene forse sottolineato poco perché mancano i giocatori chiave, determinanti. Rientra Pjanic, cioè gioca Higuain ovviamente, gioca Dybala. Sì, assolutamente il rientro di Pjanic è fondamentale proprio per questa squadra, perché a parte che con lui la maggior parte delle volte la Juventus ha vinto, e senza di lui diverse volte la Juventus non ha vinto, quindi qua si evidenzia l'importanza di questo giocatore che Allegri ha trasformato in una sorta di regista basso, mentre si era presentato a Torino con l'idea di giocare da trequartista. E poi, a proposito di risposte, al di là delle risposte di squadra, questa è una formazione quella di stasera che attende risposte da Dybala e Higuain. Insomma, la Dybala sul piano caratteriale, vedere come ha reagito o come reagirà appunto ai due errori dagli 11 metri determinanti, tra l'altro, dei risultati da Juventus. E Higuain, se riesce a trovare una specie di, o cominciare ad avere una certa continuità di realizzazione e rendimento, perché la sua è una, come dire, sta fluttuando tra il positivo e il negativo, nel senso che sembrava essersi ripreso tra l'Olympiacos e l'Atalanta, due gol in quattro giorni, e poi con la Lazio ha spiegato una palla gol pazzesca, al di là della sfortuna del primo tempo di quella palla che va sulla traversa interna ed esce sfidando tutte le leggi della fisica, ma l'errore commesso sull'1-1 subito dopo il gol di Immobile dell'1-1, insomma, non è roba da Higuain. Centravanti sono macchine delicate, sono come gli sprinter che fanno i 100 metri, basta un millimetro più su o giù ti cambia la vita. Gianni, grazie, buon lavoro. A voi. Buon lavoro. Allora, io voglio chiedere ancora una cosa, Paldo, ma ai bar, compreso quello che sotto, sentiamo mettere in discussione da parte dei tifosi juventini Dybala e Higuain. Ma è possibile? Questo è uno spaccato di una certa corrente di pensiero della gente della Juventus. È possibile mettere in discussione Dybala e Higuain, secondo te? Ma è possibile tutto nella vita. No, vabbè, questo sì, sta claro. Però, no, in generale no, nel senso che soprattutto Dybala, insomma, Dybala ha avuto un inizio di stagione che è nettamente migliore rispetto a quello dell'anno scorso, poi ovviamente ha sbagliato due calci di rigore decisivi che non sono dettagli, perché sono due calci di rigore che sono costati 3 punti alla Juve, quindi insomma sarebbe ipocrita nascondere questo elemento, non è un dettaglio sbagliare quei due rigori, però se guardiamo l'inizio di questa stagione, confrontiamo i numeri di Dybala e il contributo che Dybala ha dato rispetto ai primi 2 mesi della stagione passata, c'è un miglioramento evidente, quindi sì, certo, si può discutere ovviamente nello specifico. Per quanto riguarda Higuain, invece, rispetto a un anno fa, la partenza è negativa, e anche qui non ci sono grandi discussioni. Poi metterlo in discussione, bisogna capire che cosa significa. Certamente non lo sta facendo benissimo, ha avuto anche delle circostanze in cui sembrava si fosse sbloccato e poi invece non ha avuto un rendimento. Però insomma Higuaín, lo sai, è abbastanza un diesel secondo me, come caratteristiche, come non lo vedo come un problema, Pier, non riusciamo a vederlo come un problema a lungo termine, a medio termine, no? A parte del calcio, fino a 3-4 partite fa qualcuno discuteva anzi Cannavo. Chiaro, no, infatti fa parte degli alti e bassi della vita dei calciatori, di grandi calciatori che ovviamente se hanno un momento non particolarmente positivo come nel caso di Higuaín, se sbagliano degli episodi chiave come nel caso di Dybala, vengono immediatamente in tempo reale messi in discussione in questo strambo paese. Esatto. In questo strambo paese. No, ma è così pure fuori, non è insomma, siamo un po' più estremisti. Ok, Mr. Pardo, I have to close the program. And so have a nice time, have a nice day. George Luca. George of Luke. Salutami George of Luke. George of Luke, ok. I will do that. Ciao Pierluigi. Telecronaca questa sera per Mediaset Premium naturalmente e per la partita della Roma a Londra con il Chelsea. Ne parliamo domani. Grazie Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Appuntamento alle 14 di domani. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.